Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 1. La resa. La resistenza. Nient'altro che un piazzale di cemento delimitato da blocchi di roccia grigia ammassati a formare scalinate. Qualche sparuta striscia d'erba giallina che striscia tra le fessure, appuntite sagome metalliche protese verso il cielo che ricordano pressappoco le saette. Il posto era, nelle intenzioni dell'autore, un omaggio alla resistenza e ai partigiani. Nessuno avrebbe combattuto e dato la vita se avesse saputo che sarebbe stato ricordato con un simile squallore. Eppure tutto iniziò qui. La Resi era il Sancta Sanctorum di quasi tutti i musicisti della città. Vi facevano capolino tutti, prima o poi, dai metallari agli psichedelici, passando per i frequentatori del temibile conservatorio locale. Il posto era una vera e propria piccola oasi appartata, fra gli sciatti turisti sciabattanti che ogni estate rubavano la città e i borghesi del luogo che vi trafficavano tutto l'anno pensando esclusivamente a come far soldi, possibilmente svendendo ancora un pezzettino di natura o di centro storico. Cosa non si farebbe per guadagnarsi un tozzo di pane e un'altra BMW? Per comprendere lo spirito della Resi dobbiamo però conoscere meglio i nostri personaggi. I variopinti abitanti della Resi si possono suddividere in alcune tipologie generali, imprecise nel caso particolare, ma tuttavia efficaci nel descrivere le linee comuni al carattere dei loro appartenenti. Osserviamoli dunque meglio durante lo svolgersi di una tipica giornata alla Resi. I primi ad arrivare alla Resi erano i punk, solitamente i più giovani della compagnia, sempre pronti alla rissa e a pomiciare, sputare e vomitare ovunque, non necessariamente in quest'ordine. Apparivano nella tarda mattinata per fare colazione con bottiglie di Ceres, spesso avanzate dalla sera precedente, e arrivare poi fino a sera, bivaccando, bevendo Ceres di giornata, discorrendo con vivo entusiasmo di una miriade di gruppuscoli musicali anarchici sconosciuti ai più. Erano un gruppo a sé stante che, pur vivendo in simbiosi con il resto della compagnia, conservava una innata anarchica libertà, che li faceva apparire agli altri come animali selvatici migranti, in cerca di abbeveraggio o di ombra e frescura, che sparivano e riapparivano a loro piacimento e necessità. Nel primo pomeriggio, dopo pranzo, ecco arrivare i cani sciolti, esseri che vagano dietro i loro incubi, inseguendo le cose melmose che affioravano strisciando nelle loro menti. A volte trovavano un'effimera pace tra gli amici della Resi. Alessandro Acqua di Cane, il Nero, erano i più tranquilli, per lo più in perenne stato semidepressivo. Loro compagni speculari erano i pazzi, componenti destabilizzanti ma indispensabili della compagnia. Esseri come il pescatore o il marra erano necessari e imprevedibili dispensatori di inaspettata e contorta saggezza. Non mancavano i cosiddetti normali. Il secchione, Paolo, Billy, ad esempio, erano i classici ragazzi della porta accanto, dall'aspetto anonimo da bravo ragazzo, ma uguali agli altri nella feroce passione per la musica. C'era sempre qualcosa da imparare, qualche gruppo strano da scoprire, un nuovo stile di suonare o qualche nuovo suono quando si era alla Resi. Le ragazze erano una componente immancabile della compagnia, una parte intercambiabile ma essenziale. Le Anne rappresentavano la popolazione femminile stabile. Altre si vedevano per alcuni giorni o mesi, poi sparivano, lasciando chi un bel ricordo, chi un rimpianto. Le ragazze erano la scintilla che riscaldava le serate di nebbia, quelle dove ci si rattrappiva per il freddo nei giubbotti di pelle e dove si rideva più forte del solito cercando di non pensare ad altro, al vero grigiore che c'era oltre la bruma. A dirla tutta, durante i lunghi inverni, quelle gelide serate erano la norma. A livello del mare, l'umidità è insita nelle vibrazioni delle particelle che costituiscono gli atomi. Scivola tra le molecole di ossigeno, rende tutto più brillante, la luce stessa pare umida. Ma in certe sere d'inverno è una lama puntata contro la pelle. Entra in te e diventa te, e tu quasi vorresti dileguarti con lei nella notte e svanire nell'oscurità. Infine c'erano i moderni. Mirko Riviera, Drago Ocelot, Camillo Diossido, che esigeva di essere chiamato solo Diossido per ovvi motivi, almeno in apparenza i meno alienati. Gli amici della Resi li chiamavano i moderni per via del look relativamente pulito, per le loro attitudini tecniche e gli studi scientifici. Erano tuttavia disadattati al pari degli altri, intimamente insoddisfatti e perennemente affamati, incapaci di accontentarsi di una vita che gli sembrava già puzzare di morte. Quella sera alla Resi, Diossido stava discutendo affabilmente con alcuni dei punk seduti sul muretto. Diossido era uno di quei musicisti che, se non hanno davanti a sé un muro di apparecchiature elettroniche, non si sentono in grado, ed in effetti non lo sono, di esprimere le proprie potenzialità musicali. Aveva una passione per i bulbi oculari. Le pareti della sua camera grondavano occhi, occhi soprammobili, foto di occhi, occhi a molla. Dovunque si imbattesse in un occhio, Camillo subito lo adottava. Un busto di Beethoven guatava torvo i suoi ospiti da uno scaffale. Le luci dei sequencer che riempivano una parete erano altri occhi che sbirciavano nella stanza. Cavi e cavetti pendevano ordinatamente accanto al terrario degli scorpioni che lui e Mirko catturavano nei casolari di campagna abbandonati o nelle vecchie chiese sconsacrate. I pipistrelli erano un'altra preda ambita. Una volta liberati all'interno della camera di Diossido, venivano usati per registrare i loro stridii e usarli poi per i loro progetti musicali. Il nero, visibilmente sconvolto, con una canna fumante in una mano e una birra nell'altra, si era unito alla conversazione. Diossido, disgustato dalla droga al pari degli altri moderni, si divertiva a stuzzicarlo e con il suo tono più candido gli stava impartendo una lezione di storia di musica. «Sì, proprio loro, non dirmi che non lo sapevi. Hai presente la copertina del primo EP? Più chiari di così, la Hitlerjugend, mica i puffi!» «Era una provocazione, lo sai come andava con il punk e tutto il resto?» sbuffò il nero, figlio e nipote di partigiani, di profonda e viscerale avversione per ogni cosa che anche lontanamente sapesse di fascismo. «Anche Sid Vicious andava in giro con la svastica pur di finire sui giornali», affermò, sputacchiando le parole attraverso lo spazio nero tra gli incisivi distanziati che era causa del suo soprannome. Il gruppetto di giovani punk li seguiva interessato. Ogni tanto un rutto ben modulato esprimeva attenzione e partecipazione. Diossido sorrise. «E allora il testo di Warsaw, la loro prima canzone, lo conosci, vero?» Il nero diede un altro profondo tiro alla canna. Ne esalò lentamente il fumo, ma non rispose. «Dai, non puoi negare l'evidenza. Erano nazi. È vero che Rudolf Hess era volato in Scozia, ma...» A questo nome il nero fu netto. «Era solo estetica, un atteggiamento per far parlare di sé che poi non hanno più usato». «Se volevano sfondare, non potevano certo...» Diossido si interruppe un istante, ispirato. «Ehi, guarda che non sto mica dicendo che sia una cosa negativa», lo provocò con una risata. Il nero ne aveva abbastanza. «La smetti di smerdare il vecchio Jan? Mi rovini l'ascolto!» Per non parlare poi di come si sono chiamati dopo il suicidio di... «Vaffanculo, ok? Mi stai rovinando i Joy Division, cazzo!» Nero gettò il mozzicone di canna a terra. «E allora bruciali insieme a Wagner», concluse Diossido scorgendo avvicinarsi nel buio la sagoma familiare di una macchina. Si alzò, lasciando il nero corrucciato dentro la sua nuvola di dubbi. L'automobile si fermò. Dal finestrino aperto brillò una breve scia rossastra. Il mozzicone della sigaretta di Mirko descrisse in aria un arco luminoso e cadde nell'unico ciuffetto di erbina malaticcia della zona. Diossido la schiacciò avvicinandosi alla macchina. «Dov'è il grande capo?» chiese scrutando all'interno dell'abitacolo. «Bella domanda, doveva passare da me 3 ore fa.» Riviera lanciò un'occhiata in giro. «Pensavo che fosse qui con qualcuno.» «No, figurati, lui viene qui solo quando gli fa comodo. Stasera c'è poca gente, non ho neanche visto le Anne.» «Vabbè, allora, novità?» Mirko lo guardò in silenzio. Fece per prendere un'altra sigaretta, invece si fermò. Scosse la testa e disse: «In verità sì, mi sa che ci siamo.» Diossido sgranò gli occhi. «Sei sicuro?» «Beh, ci vuole ancora qualche aggiustamento, però secondo me la strada è quella buona», concesse Riviera con un sorriso. «Allora funziona, ma che cazzo, davvero? Lo voglio vedere, com'è fatto?» Mirko fece spallucce. Allargò pollice e indice. «Il Devil? Più o meno così. Aspetto innocuo, nero. Ma l'ha preso lui stasera.» «Cazzo, funziona?» borbottò Diossido. Fece il giro della macchina, aprì la portiera, salì. Disse a Mirko di mettere in moto e partire e iniziò a rovistare 3 CD sparsi in ogni pertugio. «Ne abbiamo fatti di progressi», constatò Mirko. «Ne avete fatti, vorrei dire. Lui mi ha sempre tagliato fuori.» «Non è vero, cazzo, non te ne accorgi? Sei tu che ti sei allontanato. Non ci sei mai quando lavoriamo e se ci sei hai sempre da criticare.» Mirko aveva preso la via per la collina. Gli occhi di Diossido erano puntati sulla strada, ma il punto focale era più lontano. «Ragazzi, io vi conosco. Lo so cos'è capace di fare, mister So tutto io. Si crede il capo per investitura divina. Non mi va di lavorare con lui perché significherebbe lavorare per lui. Tu sei a posto, ma penso che Drago abbia dei problemi. Penso che sia...» «Tu pensi troppo.» «Forse penso davvero troppo», pensò Diossido. Inserì nel lettore CD una collezione di andanti di Mozart, ma mentre adagiava le chiappe sul sedile e l'animo sulle note, non poteva fare a meno di pensare: il libro. Quelle frasi assurde gli erano rimaste in mente. «La vibrazione verde è il quid et continuum della materia. L'intervallo di quinta è la distanza immanente. Tutte le funzioni tornano e appartengono là ove sono nate.» Le aveva giudicate puttanate, e invece quel bastardo di Drago c'era riuscito. Era riuscito a ricreare le frequenze del pifferaio magico di Hamelin. Si sentì lo stomaco sottosopra. Mirko aveva imboccato la strada panoramica che li avrebbe condotti sui tornanti delle colline antistanti il mare. Guidava con calma. Tirò giù il finestrino e con un braccio appoggiato fuori con noncuranza riprese il pensiero di quella sera, parlottando a voce alta nella fresca brezza salmastra del crepuscolo. «Se questo non è destino, ci pensi?» si sporse verso Diossido. «È incredibile come sia stato semplice in fondo», disse scuotendo il capo. «Semplice e allo stesso tempo delicato come la tela di un ragno.» Iniziò a riflettere ad alta voce. «Tanti piccoli eventi casuali. Perché abbiamo voluto andare a fare le foto proprio all'obitorio di Bologna? E perché siamo passati in quella piazza? E perché quel giorno in quella piazza e non un altro giorno in un'altra piazza, ma proprio lì?» Diossido gli fece un cenno per fargli riportare gli occhi sulla strada, ma Mirko era ancora altrove. Così appoggiò per sicurezza una mano sul volante. «Perché proprio quel giorno c'era quel mercatino? E perché ci siamo fermati? Avevamo fretta, ricordi? Il pescatore aveva sputato a quella tipa che... Però tu hai preso al volo un libro, quello, e non un altro. Potevi guardarlo e ributtarlo nel mucchio, ma hai scelto di fare la fila per comprarlo mentre noi ti facevamo fretta, ricordi? È anche colpa tua. Nessuno di noi si sarebbe fermato per un libro.» Diossido non pareva altrettanto entusiasta. «Sì, hai ragione. Tanti piccoli eventi casuali che concatenati provocheranno il più grande disastro della storia. Disastro? Oh, scusa, non pensavo che potessimo rovinare questo perfetto mondo di fiabe, rise Mirko. Il libro si intitolava L'antico potere. Una copertina semplice, sfondo giallo, illustrata con un occhio al cui interno era disegnato il simbolo del pi greco. La descrizione in quarta di copertina recitava: in principio fu il verbo, ovvero il suono, la vibrazione acustica. Tutto ciò che è nasce da una vibrazione. La materia stessa, nelle sue componenti più infinitesimali, è vibrazione. La stasi non è altro che la morte della materia e della vita. L'introduzione di questo controverso volume è la traduzione dall'originale edizione in russo del 1905 dell'autore Ludwig Boris Giganov, 1862-1900. Curiosa figura di scienziato alchimista, peraltro abbastanza comune a quei tempi. Coincidenza degna di nota, il libro fu dato alle stampe nello stesso anno in cui Einstein pubblicò i primi e fondamentali lavori che dimostravano la validità della teoria dei quanti di Planck, su cui Giganov costruì la sua tesi. Appare altresì decisamente improbabile che i due scienziati potessero essere mai venuti a contatto fra loro in alcun modo, neppure in diretto, data la bassa, se non inesistente, velocità con cui circolavano le informazioni scientifiche fra diverse nazioni in quegli anni. Purtroppo l'inizio degli spargimenti di sangue e degli sconvolgimenti della rivoluzione bolscevica diedero alla popolazione altre tragiche incombenze a cui pensare. Il libro finì sotto le polveri delle macerie della prima metà del XX secolo. Dopo la rivoluzione di ottobre, successivamente agli incendi e alle distruzioni, le poche copie sopravvissute dell'antico potere finirono ammucchiate e dimenticate con altri oscuri volumi nelle biblioteche dell'Unione Sovietica. Solo recentemente il libro, frutto proibito dei vagiti di una scienza acerba all'inizio di un secolo nuovo e sconosciuto, è stato ristampato nella madre patria in un'edizione integrale volta a documentare e riscoprire il patrimonio storico di un'epoca buia. Questa che vi presentiamo è la prima traduzione a essere pubblicata al di fuori della Russia. Diossido allargò le mani in segno di resa. «Mi piaceva!» Sembrava promettente. Quell'occhio in copertina mi aveva attirato. L'ho sfogliato al volo e c'erano un paio di equazioni interessanti. La formula dell'entropia, niente di mistico o esoterico. Quando poi gli ho dato un'occhiata con calma in treno, erano le classiche frasi di fanatici mistico-religiosi. Certo che lo volevo buttare, mi fanno incazzare le superstizioni, lo sai. Diossido si era infervorato. Poi arriva lui, mi prende il libro. Lo guarda, tranquillo, tranquillo, apre una pagina a caso e legge, serio. Ancora me lo ricordo, parola per parola. Vedo navi in voragini, un uomo al muro sta, la lingua tra le pietre della nuova torre di Babele. Era così, vero? Io sbotto a ridere e lui si incazza. Ma perché si incazza sempre? Mirko lo guardò divertito. Lo so, Sì, lo so com'è. È uno stronzo. Insomma, si incazza e mi dà del coglione che non capisce un cazzo. Il libro lo prende lui e adesso, alla fine, salta fuori che ha ragione. E comunque eravamo andati a Bologna perché eravamo sicuri di trovare parecchio materiale per le diapositive. Già, è vero, per il concerto. Mirko si illuminò. Vedi, tutto parte e porta alla musica. E a noi. Le coincidenze, il fato, il destino, gli eventi, il caso, le parche. Ci hanno guidato fin qui e tu vorresti girare le spalle e far finta di niente? Sputare nella pentola d'oro? Diossido tacque a lungo, mentre Mirko si lasciava guidare docile dalle curve della strada e Mozart concertava. Drago. Diossido soffiò fuori la parola che rimase in aria, ondeggiando tra loro. Drago e io siamo amici, continuò. Almeno credo, ma... Camillo esitava. «Ma lo sappiamo tutti e due che tipo è!» fissò Riviera dritto negli occhi. «Se davvero il libro funziona, ho paura per il mondo!» concluse con un sorrisetto incerto. Riviera contrattaccò. «Ma non ti rendi conto? avremo la possibilità di cambiare questo schifo di mondo, noi, proprio noi, i perdenti, gli emarginati, gli sfigati. Diede una botta con la mano sul volante. Pensa a tutti i figli di papà, pensa a tutti quelli che ti guardano con sufficienza, anzi che non ti guardano proprio perché viaggi su una sfigatissima Renault 4. Io li odio, odio questa società di merda che ti costringe a vivere una vita da schiavo, rubandoti tempo e cervello e ricambiandoti con quel che basta per restare invischiato nel meccanismo, ma senza avere mai abbastanza per poterne uscire, se non forse quando sarai così vecchio che farai fatica a trovarti il pisello nei pantaloni, ma a te piace questa merda? Diossido appariva quasi divertito, tacque fino a che Riviera si calmò, poi gli chiese: «Come l'hai chiamato? Il Devil?» Mirko rise. «Veramente è lui che l'ha chiamato così, sai? Dispositivo emozionale, variabile, intralimbico». Premette un pulsante dello stereo e il CD scivolò fra le sue dita come una lingua metallica. Mozart tacque. Riviera infilò la mano nel vano portaggetti e prese un altro CD. «Sta per succedere qualcosa di davvero grande. Ti renderai conto che ti stai facendo tante paranoie per nulla», affermò facendo partire la musica. Camillo pensò che i Black Sabbath non fossero affatto la colonna sonora ideale per una storia a lieto fine. «Chissà dove è andato stasera», si chiese ad alta voce. Mirko non rispose, si limitava a canticchiare, stonando in coro con Ozzy, mentre spingeva allegramente la macchina curva dopo curva.